Capitolo 82esimo. Aristeo. Ipseo, gran re dei Lapiti, che la Naiade Creusa aveva generato al dio fiume Peneo, sposò Clidanope, un'altra Naiade, ed ebbe da lei una figlia, Cirene. Cirene disdegnava di filare, di tessere e di dedicarsi a simili compiti domestici e preferiva invece cacciare belve sul monte Pelio per tutto il giorno e metà della notte, con la scusa che gli armenti di suo padre dovevano essere protetti. Apollo la vide un giorno impegnata in una lotta con un vigoroso leone, lotta che si concluse al solito con la vittoria di Cirene. Il dio chiamò re Chirone, il centauro, perché assistesse alla scena e gli chiese chi fosse la fanciulla e se gli paresse una sposa degna di lui. Chirone rise, egli sapeva che non soltanto Apollo era a conoscenza del nome della ragazza, ma aveva già deciso di rapirla, forse dopo averla vista pascolare le gregge di Ipseo presso il fiume Peneo, o forse quando le aveva donato con le proprie mani due cani da caccia, come premio per la vittoria di una gara di corsa svoltasi ai giochi funebri in onore di Pelia. Chirone inoltre profetizzò che Apollo, condotta a Cirene oltremare, nel più ricco dei giardini di Zeus, l'avrebbe eletta regina di una grande città, dopo aver riunito su una collina gli abitanti di un'isola. Accolta con grandi onori in Libia, Cirene avrebbe generato ad Apollo un figlio chiamato Aristeo, aiutata nel parto da Ermete. Il bimbo sarebbe poi stato affidato da Ermete stesso a Oro e alla madre terra e nutrito di nettare e ambrosia. Raggiunta la maturità, Aristeo sarebbe stato onorato con gli appellativi di Zeus immortale, puro Apollo e guardiano delle gregge. Apollo infatti condusse Cirene sul suo cocchio d'oro fino al luogo dove sorge oggi la città di Cirene. Afrodite li attendeva per dar loro il benvenuto e subito li condusse nella camera d'oro di Libia. Quella sera Apollo promise a Cirene una lunga vita nel corso della quale avrebbe potuto soddisfare la sua passione per la caccia regnando su una terra fertilissima. Poi la lasciò sulle vicine colline affidata alle cure di certe ninfe del Mirto, figlie di Ermete. Colà essa diede alla luce Aristeo e in seguito a una seconda visita di Apollo generò Idmone il veggente. Ma una notte si giacque anche con Ares e gli generò il tracio Diomede, il padrone delle cavalle divoratrici di uomini. Le ninfe, soprannominato Aristeo, Agreo e Nomio, gli insegnarono a far cagliare il latte per aver formaggi, a costruire alveari e a innestare l'oleastro per ottenere l'olivo. Aristeo insegnò a sua volta queste utilissime arti ad altri uomini che, grati, gli tributarono onori divini. Dalla Libia egli salpò per la Beozia e Apollo lo guidò alla grotta di Chirone perché vi fosse istruito in certi misteri. Quando Aristeo raggiunse la maturità, le muse gli diedero in sposa Autonoe, dalla quale egli ebbe lo sventurato Ateone e Macride, la nutrice di Dioniso. Le muse gli insegnarono inoltre l'arte di guarire e di far profezie e gli affidarono le loro greggi che pascolavano nella pianura Tamanzia di Ftia, sul monte Otri e nella valle del fiume Epidano. Colà Aristeo si perfezionò nell'arte della caccia appresa dalla madre Cirene. Un giorno Aristeo si recò a consultare l'oracolo delfico che gli consigliò di visitare l'isola di Ceo, dove avrebbe avuto grandi onori. Alzate subito le vele, Aristeo scoprì che la costellazione della Canicola aveva fatto scoppiare una pestilenza tra gli isolani per vendicare la morte di Icario, i cui assassini si nascondevano appunto in Ceo. Aristeo convocò il popolo, innalzò un grande altare su una montagna, offrì sacrifici a Zeus e al tempo stesso si propiziò le stelle dell'orsa, mettendo a morte gli assassini. Zeus, in segno di gratitudine, ordinò ai venti etesi che in futuro diffondessero una piacevole frescura in tutta la Grecia e nelle isole adiacenti per 40 giorni dopo il sorgere della costellazione del cane. Cessò così la pestilenza e gli abitanti di Ceo non soltanto onorano Aristeo come loro salvatore, ma ancora oggi si propiziano ogni anno la costellazione prima che sorga. Aristeo visitò poi l'Arcadia e in seguito si stabilì a Tempe. Colà tutte le sue api morirono e profondamente angosciato, egli si recò alla sorgente dove sapeva che Cirene viveva in compagnia delle Naiadi, sue sorelle. La zia di Aristeo, Aretuse, udì i suoi gemiti giungerle attraverso l'acqua e invitò il giovane a seguirla nello splendido palazzo delle Naiadi. Esse lo lavarono con acqua attinta a una fonte perenne. Dopo una festa sacrificale, Cirene gli disse: legami mio cugino Proteo e costringilo a spiegarti perché le tue api si ammalano. Proteo stava facendo la siesta pomeridiana in una grotta dell'isola di Faro per ripararsi dalla canicola e Aristeo, dopo averlo sopraffatto nonostante le sue continue metamorfosi, seppe che la malattia delle api era una punizione inflittagli perché egli aveva provocato la morte di Euridice. Infatti, quando Aristeo aveva tentato di sedurla sulle rive del fiume Tempe, Euridice era fuggita ed era stata morsa da un serpente. Aristeo ritornò al palazzo delle Naiadi, dove Cirene gli consigliò di innalzare 4 altari nei boschi in onore delle Driadi, compagne di Euridice, di sacrificare 4 giovani tori e 4 giovenche, di offrire poi una libagione di sangue lasciando le carcasse delle vittime al suolo, là dove erano cadute, e di ritornare infine il mattino, 9 giorni dopo, recando i papaveri datori di oblio, un vitello grasso e un'agnella nera, per propiziarsi l'ombra di Orfeo, che aveva ora raggiunto Euridice nell'oltretomba. Aristeo obbedì, e il mattino del 9° giorno uno sciame di api volò fuori dalle carcasse in putrefazione e si radunò su un albero vicino. Aristeo catturò lo sciame e lo sistemò in un alveare, e gli Arcadi ora lo onorano come Zeus per aver loro insegnato questo metodo di allevamento di nuovi sciami di api. Più tardi, angosciato per la morte del figlio Ateone, che fece nascere in lui un odio sordo contro la Beozia, Aristeo salpò con i suoi seguaci per la Libia, dove chiese a Cirene una flotta per emigrare. Cirene gliela procurò e Aristeo riprese il mare, questa volta diretto a nord-ovest. Attratto dalla selvaggia bellezza della Sardegna, dove effettuò il primo sbarco, cominciò a coltivare l'isola. Vi generò 2 figli e fu raggiunto infine da Dedalo, ma si dice che non fondasse alcuna città. Aristeo visitò altre isole lontane e trascorse parecchi anni in Sicilia, dove ebbe onori divini, specialmente dagli ulivi cultori. Si recò poi in Tracia, dove completò la propria istruzione prendendo parte ai misteri di Dioniso. Dopo aver vissuto per qualche tempo nei pressi del monte Emo e aver fondato la città di Aristeo, sparì senza lasciar traccia di sé ed è ora venerato come dio sia dai barbari traci sia dai greci civili. Pindaro aggiunse molte frange alla leggenda delle origini di Aristeo, allo scopo di adulare un discendente di Batto, il quale nel 691 a.C. guidò un gruppo di coloni da Tera in Libia, dove fondò Cirene e fu il primo re di una lunga dinastia. Gli abitanti di Cirene si vantavano di discendere da Aristeo. Batto, dalla lingua legata, era soltanto un soprannome, figlio di Apollo, perché Apollo aveva avuto un culto a Tera, e il porto di Cirene fu infatti chiamato Apollonia. Cirene fu però un personaggio mitico che esisteva già molto prima dei tempi di Batto. I suoi rapporti con i centauri dimostrano che essa era una divinità magnesia del culto del cavallo, importata poi a Tera, poiché il nome di Chirone appare anche in antiche iscrizioni rupestri in quella zona. Il mito della nascita di Idmone da Cirene e da Ares si riferisce appunto a questa dea primitiva. Il mirto era in origine l'albero della morte e le ninfe del mirto furono dunque profetesse incaricate di istruire il giovane Aristeo. Questa pianta divenne in seguito simbolo della colonizzazione perché gli emigranti portavano con sé rami di mirto per dimostrare che intendevano por fine a un periodo della loro vita. Aristeo fu un appellativo rituale dello Zeus Arcade Ceio. Altrove fu un appellativo di Apollo e di Ermete. Secondo Servio, Esiodo aveva definito Aristeo un Apollo pastorale. A Tanagra, in Beozia, Ermete era noto come colui che porta l'ariete, e i pesci gli erano sacri a fare in Acaia. Un affresco tombale di Cirene mostra Aristeo circondato da pecore e pesci e con un ariete in braccio. Le sue peregrinazioni servono a giustificare l'appellativo rituale di Aristeo che si ritrova in Sicilia, in Sardegna, Ceo in Beozia, in Tessaglia, in Macedonia e in Arcadia. La costellazione della canicola è il dio egizio Thoth, identificato con Ermete, che quelli di Ceo chiamavano Aristeo. La leggenda delle api che sciamano dalle carcasse in putrefazione dei bovini è stata narrata in modo erroneo da Virgilio. Esse uscirono probabilmente dal corpo di un leone ucciso da Cirene o in onore di Cirene. Questo mito, come quello delle api di Sansone che sciamano dalla carcassa di un leone, pare sia stato dedotto da una raffigurazione primitiva di donna nuda intenta a ruzzare amorosamente con un leone, mentre le api sciamavano dalla carcassa di un altro leone. La donna nuda è la dea leonessa Cirene o Laittita Epatu o Anata di Siria o Era, la dea leonessa di Micene, e il suo compagno è il re sacro, che doveva morire a mezza estate sotto il segno del leone nello zodiaco egizio simboleggiato da un coltello. Come Teseo o Eracle, egli indossa una pelle e una maschera da leone ed è animato dallo spirito del suo predecessore, il leone morto, che si manifesta sotto forma di ape. Ciò avviene in primavera quando le api cominciano a sciamare. Più tardi, come ape della mezza estate, la dea pungerà mortalmente il re e lo evirerà. Il leone ucciso dal re sacro, come fecero Eracle e suo amico Filio nel Peloponneso, o come fece Cizico sul monte d'Indimio presso il mar di Marmara, o Sansone tra i Filistei, o Davide a Betlemme, era uno degli animali che sfidavano il nuovo re in un combattimento rituale prima dell'incoronazione. Il racconto che Virgilio ci fa della visita di Aristeo al fiume Peneo dimostra come questo mito sia stato sviluppato illogicamente. Proteo, che viveva a Faro nel delta del Nilo, viene introdotto nella leggenda Viva Forza. Infatti a Tempe vi era un famoso oracolo di Apollo che Aristeo, figlio del dio, avrebbe potuto consultare senza andare tanto lontano. Aretusa, un fiume del Peloponneso, non ha nulla a che fare col Peneo e Aristeo, nel palazzo delle Naiadi, vede diverse stanze dove si trovano le sorgenti del Tevere, del Po, dell'Aniene, del Fasi e di altri fiumi molto distanti l'uno dall'altro, il che è mitologicamente assurdo. Per i cretesi era più conveniente esportare l'olio in Sicilia anziché le piante d'olivo già innestate. La coltivazione dell'olivo ebbe inizio sulle coste meridionali dell'isola, nel tardo periodo miceneo. L'Aristeo che visitò la Sicilia può essere identificato con Zeus Moria, cui si attribuì la distribuzione di piante innestate che discendevano dal sacro olivo piantato da Atena sull'acropoli di Atene. Egli introdusse probabilmente anche l'allevamento delle api, giunto ad Atene da Creta Minoica, dove gli allevatori professionisti avevano come emblema un'ape e un guanto e si servivano di alveari di terracotta. Il termine greco per indicare l'apicoltura, kerintos, è di origine cretese, così pure tutti i termini derivati come kerion, setaccio da miele, kerinos, cereo e kerafis, tarma delle api, una specie di locusta. Ker, infatti, il cui nome, scritto anche car o cure, significa generalmente destino, triste sorte o fato, e si modificò in keres, malanni, pestilenze o invisibili malattie, deve essere stata la dea ape cretese, una dea della morte nella vita. Parimenti, la dea tebana in forma di sfinge è detta da Eschilo, Ker, che rapisce gli uomini.